E sono un alcolista? Sì, proprio quelle. Ho capito, Antito. Ma... Siamo stati bisogna ai gli alcolisti ci dia noi. Non solo alcolizzato, ma pure cibio. Cibio, non cibio. Perché quando abitavo in Galizzetto c'erano tanti di quei cibi che venivano la mattina dentro al bar, figurati un giro uno, un giro l'altro, ne riuscivamo tutti in conti. Era quando alla una. Stamattina presto. Sì, la mattina presto. Io ti parlo degli anni 87, 90, ancora c'era il boom della 27. C'erano tanti di quei cibi che non c'era manco spazio per entrare nel canale, figurati. I canali erano 40, tutti i 40 erano pieni. Ma tipo che da mattina presto Icnusa, Bianchino, direttamente Mirto? Di tutto si beveva, Bianchino, anche champagne a volte, di sabato, bevevamo, ci siamo divertiti parecchio. Guadagnava più il bar che io, Divertiti, mezzi costi. Ci siamo divertiti però, oramai... Quella plastica, me la, da quando mi sono andato lì da quella casa è finita, io sono guai, sono finito la bella colizzata, avevo perso tutti i cibi che venivano un giro uno, un giro l'altro, perché facevo riparazioni, cosa resa era, non mi ricordo fa bene, ogni casino. E bei tempi. Bei tempi sì, e se lo donne che c'erano, mamma mia, c'erano state una quindicina. Sento un telefono, scusami, che mi ha dato un cogno. Briacone. È il tono di cosa mi ha dato. Bei tempi quelli. Ascolta, questa antenna Sirtel C2000, chi la conosce? C'è il problema, Fabri. Stai oscillando adesso. Stai oscillando le antenne. O c'è il PL mezzo attaccato dietro al baracchino, oppure il suo. Me la sono accorta adesso. Si è passato dal 9.5 al 9.20. Ma oscillando come? È un bel è oscillato, come se fosse attaccando lineare, come se fosse senza massa con la massa, senza massa con la massa. Sarà il vento? Penso che sia il vento, si è salito a 9.20 di colpo. Adesso ci sono sceso a 9.5. Quella di pieno dietro per la china, vedete, se ti sei messo staccato. Adesso guarda. Scoppiata tutta la chi è? Ma è scoppiata tutta lì, allora. Capito Giomaria, dimmi. Chi sei Giomaria? Sei attivo Gianni Doppio Rum. Sei. Gianni Doppio Rum, Ma non parlo. Mi è sembrato in basso. Chi sei Gianni, non può essere. Ah, dove c'è Gio Maria, ya? Gio Maria. Ma, lo dico perché ci vanno, Ecco. Già ti sento, Avanti, policina. Fate da bravi, è ben sentito la new entry. Buongiorno, buona domenica. A te, buona domenica. Come ci va? Stanza bene, stavo chiedendo notizie di come si stesse al mare perché volevo fare un salto al mare, ma a quanto pare c'è maestrale. Maestrale, c'è. Livello acquario, le ondate bianche, è tutto bianco il mare. Ma da che parte? Da parte Trattavola. Anche zona Stintino? Sì, c'è ancora lì, a Ferro. Quando è stasera? Sì, a dove ce lo facciamo? Dove faccio la bagna? C'è un più tranquillo. Hai l'eco troppo alto, Giomari. Ripeto un bel, alla cappella. Ma dai, non si sente bene, non sono a casa, sono in campagna. Si sente un po' babababababababa. Perché aspetta un attimino, metto le cuffie così ti capisco un po' meglio. So. Aspetta. Brava Giammarino. piega tutti il ramo e vai in verticale. No, la terra tua già va bene, che Maria. E alle... ecco troppo alto, ci avevi capito. Ah, sì, riesco a capirti. Allora, va bene adesso? E adesso sì, dopo che era troppo alto. Ecco, bene, stai girando. Allora, vediamo se Fabrizio ha sistemato l'antenna. Fabrizio. Fabrizio non trovo rientrato. Avanti, Alessandro. Io cosa ti dico, Bronco? Già, mi è andato a bucare o mari, che fanna voleva. A gira scendo al ghero e me ne affutto. Da quel ti dica. E così non si può fare. Sei maestrale, di lì mi sale più calmo. Andate. Senti come scende al ghero, lì è più calmo la cosa. Si sta meglio al ghero. E che parloso, via. Dimmi una cosa, quando schiaccio questo tatto, rumori strani senti. O aumenta qualcosa. Dammi un controllino con questa cosa. Come mi ascolti adesso? C'era un tanto di segnale, ma c'erano due altre mappe che sembravo molto piccoli uguali. Non ce la fa con l'alimentatore? Me lo immaginavo. Sempre lo stesso problema. Ci vuole un alimentatore più grande. No, non ce la fa alimentarlo questa gira. Vabbè, vuol dire compareremo prima o poi. Farmiati i soldi. No, per queste cose, ma... tanto non credo che costi molto. Su internet credo che costi sulle 60 euro, ma cos'è il genere? Da costa poco, già costa poco. Ci sono i squicci, 50 euro in conto quanto ne vuoi. Aspettate, ecco, mi sentite? Sì, io avanti. Capo. Il corpo è stato sincero. Oh, oh, oh. Sento meglio, con l'altro che avevi ieri di Trento a Cuba. E allora che qua è basso, va, se altro succede. Troppo alto. Ma c'è, so che c'è anche la batteria a terra, sicuramente. Adesso domani mattina, dato un lavoro, martedì, cioè il turno martedì, gliela controllo, se scaricava gliela controllo. Quella da 9. Volevo prendere l'alimentazione dal baracchino, so che dopo, se lo devo usare nel telefono non posso usarlo, come faccio? Perché non puoi usarlo? A parte lo spinotto del tubo è a 8, quello del telefono è a 4, quindi se hai pensato per quel famoso cavetto basta che non glielo colleghi col cavo di alimentazione e si è a posto. Sì, e vabbè, compro la batteria e faccio il primo. E la batteria allora, una di quelle dura c'è, che rendono molto molto di più, e costa un pochino, qualche cosettina in più, però almeno rimangono un po' di tempo in più nelle normali. Sono fermo, e vabbè, tanto cosa mi costa niente, quanto costa? 4 euro, 5 euro, ma ti do un anno, due anni, a voglia. E vabbè, questa l'ho presa dal riva. Se devo di 10 mi sono questa batteria qua. Ma l'ho presa da Franco. Come la testa in bagno, ecco. L'ho presa da Franco. Mattino che devo cantare una song lì in quel programma dove sto io. È un po' tocca a me. Cos'è sta cosa? Dimmela lui. Anzi, ben sentite innanzitutto. Questa cosa che fra un po' tocca a te, che cos'è sta cosa che devi cantare? È un programma, si chiama Pal Talk. Dove ti posso sentire? Mi stai cantando il programma e mi senti? Sì. Allora, roba, PC. Oh, non me la posso perdere. Ti scaricati questo programma, Pal Talk si chiama. Paltalk.com. Ti scarichi il programma e poi se hai problemi, penso che in inglese non abbi problemi, no? Non ne ho. Allora qua scaricalo. E devi cercare la stanza, non lasciare che i sogni rimangano sogni. Io sono lì dentro. Oppure il salotto degli amici del capitano. Ma un attimo il break, vado un attimo a cercarti e ritorno. No, cercati il programma, poi devi capire come funziona, mica è facile. Vabbè, poi se uno sa l'inglese già non penso di creare un problema. Cioè, un mic e poi mi fai sapere. Avanti il break. E buongiorno a tutti, dai, Gianni lo più lungo. Ciao Gianni. Ciao Gianni, un attimo che devo fare la posizione, riprendo subito. Ciao Nessi, avanti, ciao anche a Luca, avanti Nessi. E via. Ho perso il tempo dove andò Gianni, ti sento... di modulazione, vabbè, mi sembrava meno più 5, però l'apparecchio non è stato smesso, come sembra di no. Ma no, questo è l'ala 48 occluso della Midland che sono ancora, ce l'ho fermo e lo sto rimettendo in funzione perché sennò poi va bene che si rovina. E allora ho attaccato questo oggi, devo avere la presenza di apparecchi che non uso in settimana. Ah, infatti ho fatto che non era quell'apparecchio che avevo di solito. Le ha fatte Alessandro, fai girare. Che cazzo, stavo cercando, avevo il suo programma appartato, ma com'è? Scritto tutto attaccato, com'è che si bisogna scriverlo? Ui, Alessandro il barbierino! Beh già, poco fa è entrato un altro, e mi sei sembrato tu, invece da voi mi sono reso conto che non era la tua voce. Alessandro, no, sono entrato adesso, non ho compito fino adesso. Quanto è tutto attaccato dovrebbe essere? Boh, esci che lo cerco, lo stavo cercando. Attacco, non c'è pure. Con la K finale lì. La K. Questo apparecchio lo sto provando. Un po' cupo ti sento. È così come mi senti, guarda, 9-3, 9-3, 9-3. Tu casa la cosa. È buono. Praticamente... così abbiamo abbassato il tune, là, dovrebbe essere meno cupo adesso. Però è troppo viva la voce, capito? Troppo viva. È amplificato, deve fare l'effetto presente. Oh, oh, aspetta che mi si è incastrato il tasto di mano. Spero diversi modi di modulare, diversi... così, di provare apparecchi. Tu questo che stai usando che cos'hai adesso? Un Tristar 790 DX. Ma già è bello, già va bene. È che c'ha un amplificatore interno che insomma è riuscito a farlo funzionare, perché non ci vuole un alimentatore più grosso, che va boh, può entrare in mano, vediamo un po'. Poco ci vuole, basta comprarlo su internet. Ecco, poi, 1000 volte me l'hai dato l'indirizzo. Mille voci non ci comparato, l'Italia. Va boh, prima o poi mi decido lo faccio. Sai quello che stai usando? Un coso, un Alan 48. Già. Mi sentite? Cappa che ti sento. È successa una cosa strana, ho toccato, ho spostato un po' l'alimentatore perché stavo spolverando. Cazzo. E mi sono scomparsi il canale dell'apparecchio, tutto quanto. Poi l'ho spento, l'ho riacceso e c'era di nuovo. Una cosa strana, uno sbalzo di tensione ha messo in corto. Cosa è successo? Li senti già questi Perugia che stanno chiamando? La voglia un capazza, sì, la sento. Sento Gianni. Ehi Mario, un attimino. Buongiorno. Avanti Mario, con buongiorno. Mi hai sentito? Come sta uscendo già? Sempre a frusci. Sempre con un fruscio. Tu non devi educarsi parecchio. Ah, te la dico io mania, animale. Che vai, educare che cosa, boh. Andare. Attenzione, Perugia, se ascolti, l'isola della Sardegna che ti chiama, cambio. Ciao, via della Mescia, fortunato in Mescia, buongiorno. Siete 351, la stazione è doppia. avanti il ruolo della città di Sassari che ti supercordializza. Avanti Pino, con la buongiorno anche a te. Mi direte con questa radio come sto andando, perché qua me la criticano un po'. Ditemi come sta uscendo questa radio, cambio. Per Ragusa, no, Perugia. C'è un poco di tutto, un po'. C'è un po' di propagazione, c'è Ragusa, Perugia, c'è Pino da Perugia. No, per i turni, già siamo a turni di bomba, rimane. E non vera, perché... che piazza è? A Vizzini, guarda, alla festa di Vizzini. Aspetta, una risata, ci siamo fatti. A Desolina, che... è andata al ristorante, dice, che cosa... Buongiorno signora, cosa desidera? Dipende da cosa c'è, mi ha detto ci abbiamo pesce, ci abbiamo carne, quale pesce e quale carne? E gli fa, dice, di carne abbiamo vitello, mondo, abbiamo maiale, coniglio, no, la carne non mi piace. E passiamo al pesce, allora che cosa avete di pesce? Dipende da cosa avete voi. Dice la sugliola. No, la sugliola è troppo piatta, la spigola, non mi piacciono gli spigoli. E allora cosa vuole? La balena? Sì, mi porti un pezzo di balena e si ricordi di lasciare la testina per il gatto. Vai, gatto. Qui qua, rieccomi. Breco, breco, breco, breco, breco, breco. Avanti, breco, breco, breco, breco, breco, breco, breco, breco, breco, breco, breco. Luca. Guarda un attimino come sta tirando. Aspetta che sta innescando un po' adesso. Guarda un po', guarda un po', guarda un po'. Bella, bella, bella radio, bella, bella, bella, bella, bella. Va bene, va bene. Guarda, lui sta abbassare un pelino, perché c'è una forte che è bella, vai, abbassa un po', ma tu. Ma tu dici dal macchinino o dal macchinino della radio? No, no, aspetta, ma com'è il macchinino della radio? Al massimo. Pompa, aspetta che lo metto. Bene. Così la pompa. Abbasso un pochettino la radio e così. Ora, ora, ora. Uno, due, tre. Che importante, ma stai innescando però, eh. Che importante. Aspetta un attimo. No, non stai innescando, c'è qualcosa, sai che c'è la ventola che sta un po' creando problemi. Aspetta che spara al massimo, scusate gli amici a ruota, eh. Mette quasi al massimo e sei a pompa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, c'è un... sotto, fidati, c'è. No, a pompare pompa, però tu metti fare qualche regolazione, perché, vedi, se io lo metto, come ti ho fatto sentire l'altro giorno, guarda. Facciamo c'è una cosa del genere, tu, guarda. Senti? Quindi tu c'hai il microfono a 9, per quello che puoi metterla a 1, io ce l'ho a 7 adesso, così a 7, però è troppo basso, a 7, e lo sto alimentando a 8 volte, che è quello della radio, poi posso abbassare un attimino il, come si dice, il toni, allora se abbassi il toni, guarda un po' cosa succede, 1, 2, 3, 1, 2, 3, diventa troppo scura la radio, no? Allora, metti a 7, allora va bene, troppo. Allora, 7 è così, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Però questo che senti è possibile che si aspetta, eh? Sto cercando di variare la frequenza della ventola dell'alimentatore, può essere anche quello che crea problemi, eh? Come dice l'aeroporto? No, quello lì è la ventola. Guarda, aspetta un attimo che la sposta. Adesso lo senti lo stesso. È molto amplificato, il problema è questo. A diminuirlo così ma perdo tutto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Riprova, vai, riprova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ma lo sento, aspetta, è l'alimentatore che sta facendo questo casino. Lo sento anche io come rientro, Non so cosa dirti, lo sento anche io. Dai, comunque sono solo pronto, va bene. Avanti Gianni, stai chiamando? Scusate l'intrusione, ben sentito Grod, devo chiedere una cosa a Luca. Luca, non ho trovato quella roba da scaricare. Come no? Talk.com, per forza. Se sei da un computer tranquillo lo trovi. Io sono ignorante, computer, non l'ho scaricato. No, anch'io, ma mi manda su una cosa strana di Facebook, quindi non ho capito dove devo andare. No, allora tu scrivi su Google, talk.com. Oppure da Express non ti faccio entrare perché non hai nickname, cioè praticamente devi creare un nickname prima di accedere a Taxi Express. Ti conviene scaricarti proprio il programma che è meglio, così è più facile, è più... Io sono 3 anni qua, io l'inglese è poca roba, proprio quasi zero, qualcosina, ma ormai so dove andare, dove mettere le mani, tutte le impostazioni e tutte queste cose qua. Prova, vedrai che lo trovi, prova. Stavo lì. Prova, già stavo chiamando. Adesso tu, hai già cantato. Ma non è il problema. Non so se tu abbia capito, ma ho cambiato apparecchio di nuovo. Allora, la volta magari mi capisco. Se non lo fate tutta la sera, non si capisce una mazza. Come detto, pubblicina. Tu, la futtidini, però, che c'è già brutto tempo, non ricantare, dai. Fine, tu ho tutto a posto, mantenga a te. Fine, ando voi, la commessa. L'unica cosa che mi puoi sapottare cantando è quando vai in questura. Lì già sei brava a cantare. Qual è il tuo pezzo forte? Non ho pezzi forti, qualche qualcuno così va e non... Soltanto due o tre, quella qua si secca e vado, come si dice, mi ingroppo proprio. No, qualcuno così, buco. Qualcuno di Casarrillo. Ai ai, insomma di schiena una donna, la santa. Che niente di pianto. Niente di che. Ma sono bravi questo programma, che se li senti cantare vanno a bocca, ma bravi veramente. Bravi. Roger, ma come si chiama, hai detto? Il programma si chiama Talk. Lo chiamano Pal Talk. Che vuol dire, ma non mi ricordo, devo tradurre in inglese. Se la tua ragazza lo sa, da 25, cosa vuol dire? Devo fare la traduzione. Paltalk.com. Aspetta, 2 secondi, tengo il microfono io, 2 secondi, aspetta. Allora, se io su Google scrivo paltalk.com, paltalk.com, vediamo un po', vedi che deve andare dove c'è scritto, allora vediamo un po', forse è l'altro, toccando video, no, non è questo, neanche io in chat siti di Paltalk, no, l'altro, Paltalk Express, vediamo un po', no, neanche quello, no, neanche quello, ma è il primo, toccando. Capito? Poi magari ti dà le cose dove scarica il file e poi lo installa. Cantato anche io col programma. Devo fare la mamma a cantare un attimo. L'abbiamo cantato il ricordo una volta. Oia, adesso io se non ti ricordi male, l'ho cantato una volta. Allora sono a poco, da un po' che non canto, perché l'altro computer non lo permette. Questo che c'è adesso non è mio, ma l'hanno dato per fare un po' di pulizia. Sono un po' io rimasto a posto, perché no, neanche abbastanza già. Diciamo, un problemino ce la si blocca ogni tanto, ma sicuramente la formattare. Perché è impossibile, tutte le pulizie impossibili immaginabili le ho fatte. Le ho mandato su un programma per la pulizia e robo, si blocca, si inchioda ogni tanto. E niente. Cioè, l'ho toccata a formattare. Se non clicca il disco. Provo qua vicino. Ehi, sto innescando. Aspetta che c'è un numero di massa che non è andata bene. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Attenzione polizia. Mi ero al computer a cercare quella roba. Guarda un attimino, come sta uscendo, come sta arrivando lì. Aspetta, aspetta, tolgo il tuo fischio, innesco. Non va bene, aspetta. Ok, guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Che bene, ma ti ho sentito meglio altre volte. Sì. Ci sono, ma nel senso, meglio in che senso? Nel senso che arrivi più basso di radio e comunque la radio non è pulita. Ecco, scusate. Luca, secondo te sto arrivando basso di radio? No, non è basso, tu hai qualche problema di massa lì. Perché ti innescano tu? Io metto abbassa il volume del microfono a me, dal microfono. Lascia stare, metti in una palla. Vediamo questa radio qua con processore, vedi, guarda, senza processore, guarda, basta, vedi, se io non sento, lo può passare, vedi che sta, vedi, non va bene, non sono modificati questi microfoni qua, dovete abbassare, vedi, abbassare dal microfono. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A parte che tu quello che senti è l'amplificazione porta dentro la ventola con l'alimentatore, così lavora adesso con la massa della bomba dovrebbe uscire abbastanza bene. 1, 2, 3, ora ecco, faccio una musica qua bene, no, di più faccio, ho fatto io lui con quello lì. Guarda un attimino Polici, come sto arrivando? È un po' meglio, però sembra che ti trascini dietro qualcosa. È l'aumento del ventilatore, sentiamo, sicuramente del o barattino che sta calando troppo, oppure l'aumento dell'alimentatore. L'aumento dell'alimentatore, mi sembra strano che mi stai dicendo che la radio non va bene. Guadagnare un pin per poterlo utilizzare come limitazione al microfono, se vuoi. trovato solo quello del magnum e basta, ma tutti gli altri sono tutti secchi, duri, sono maleabili, sono questo della magnum e quello della proxia sono eccezionali come fili. Come ho guardato realmente, se magari c'è qualche, prova a tagliare un attimino, vedere se c'è qualche colo in più. Perché si potrebbe fare anche una cosa, tentare di fare una cosa, ma mi sembra troppo aderente. Cioè riuscire a sfilare un cavo e infilarne un'altra mano. Una barra, non è così, no, che lo fai. Ma comunque tenta, non muoci. Tutto male che vada, ci perderai un cavetto. Ah, mi pare che io qualcuno ce l'ho, diciamo, di quelli morbidi. Adesso voglio tentarmi di cambiare una capsula al, come si chiama, cioè un microfono della ZG, e voglio provare un'altra capsula, vedere come va. Tu che cosa mi hai messo nelle mie principe di capsula, quella di citofono? A dire la verità ne avevo trovato una di Sirio, però inizialmente mi stava creando problemi con questo microfono, quindi l'avevo tolta pensando che fosse quello. Adesso ne sono riuscito a trovare i connettori giusti, se la ritrovo, perché non mi ricordo dove l'ho buttata, provo a sostituirla a vedere se pompa ancora di più, ma se mi dite che va bene così lascio tutto così come è, intanto è inutile stare lì a cercare di migliorare di poco, magari creare dei problemi in più. Pulita, c'è ragione Pulicina, si porta qualche cosa dietro, non è una radio pulita, probabilmente la troppa amplificazione ti fa sentire tutti i rumori sottofondo. È possibile, guarda un attimo, aspetta, cosa ne senti questo che guarda, per farci sentire ancora di più. Ok, la ventola della cosa, dell'alimentatore, posso scendere leggermente l'amplificazione. E allora dovrebbe essere un attimino inferiore, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quasi niente si sente lui, se tu scendi di amplificazione non sente quasi niente. Oppure allontanaglielo, allontanare, mettere un altro posto all'alimentazione, in modo che non si senta, che sia più riparato dai rumori. Perché quella capsula lì deve essere molto sensibile, è buona perché è buona, se c'è silenzio non si sente niente, ma quando c'è qualche rumore sottofondo si sente subito, capito? Vabbè Grote, fai girare, dai, che sennò poi ci picchiamo un po'. Caparoggio, non ho capito realmente chi c'è rimasto in rotta, e comunque dai Luca, tu che sei più accorto e informato, fai girare tu, dai, prendi. Cioè, Gantendi. Chi c'è rimasto? Pollicina, avanti. C'è anche Pomponio. Pomponio? Negativo, non l'ho copiato. Pollici, sono offeso, non mi hai manco salutato. Chiedo scusa, saluto tutti quelli che non ho salutato prima. Ero troppo impegnato a scaricare questa roba che mi ha suggerito Luca. Sto scherzando. Io l'ho avuto, ci ho anche cantato lì, però un paio di volte, perché poi mi andavo in contrasto con altri programmi, quindi l'ho dovuto togliere, era troppo pesante come programma, mi dava problemi, perlomeno a me, non lo so se te l'ho fatto tutti, KK. Ma adesso già c'ho il mio computerino dove ci ho comprato, troppo bellino, Che cosa ti sei comprato? Ho comprato un Acer Aspire, quelli piccolini che sono, non fa da media world, 199,90€, una cosa del genere. È molto carino, molto carino. L'ho attaccato il 31 Grod, se senti la musica come si sente. Mi stai dicendo, hai cantato anche tu in questo programma? Ma poi non ho capito, ma rimane registrata la cosa e non si può cancellare, oppure la puoi cancellare? Programma, lo puoi togliere, no, la roba, tu quando canti va nell'aria, non rimane registrata, cioè ognuno fa a turno, no, quando aspetta a te canti tu. Io avevo cantato una canzone insieme a mia figlia e poi l'unica volta che abbiamo cantato insieme, poi nel senso che in quel programma lì non siamo più entrati, dai. Vabbè, mia figlia canta anche, quindi è molto più brava di lei. No, nel senso che fa piano bar. No, diciamo che è a andata a scuola di canto e poi fa qualche serata anche nella notte bianca cantato eccetera eccetera, e poi si mettessero d'accordo, non sono furbi, si mettessero d'accordo, dico il ragazzo fa, dice c'è tutta quanta l'attrezzatura per il karaoke, mettetevi d'accordo, voi fate qualche serata nei bar e cosa e vi fate qualche soldo. Ma soprattutto in questo periodo, ad esempio, a Porto Torres è pieno, ti fai anche qualche soldino, arrotondi bene se ti sai muovere, ti occupi quasi tutte le giornate del mese, capito? Sì, poi è anche bravina cantando, non perché sia mia figlia, però è molto brava cantando, la cercano in molti posti, va a fare il karaoke nei locali, addirittura una ragazza gli ha chiesto se voleva andare insieme a lei a cantare, ma si tratta di andare fuori, di andare per i paesi, a me questa cosa non conosco niente, specialmente che non conosco. Da quel punto di vista no, sicuramente non è una cosa che ti fa rimanere tranquillo. Quanti anni ha? 19. Vabbè, magari la puoi accompagnare tu, Che cavolo? No, non io voglio andare a accompagnare, come faccio? Io sto lavorando. No, il ragazzo c'ha la macchina, se loro organizzassero queste serate qua, qualche soldino lo togli fuori, sì. Adesso è una ruscina il ragazzo che sta facendo i G. E chi è? Siamo di G. Ah sì, l'ho già sentito, per varie vicissitudini emotivi l'ho già sentito. Chi è che ci è rimasto in ruota? Pomponio. Manco per la cappa. Avanti Policina, dai. Sì, ma mi sa che vi abbandono anch'io perché visto il tempo rinuncio al mare e mi metto a fare roba a casa che ne ho bisogno. Dammi un controllo un attimo, adesso come lo senti la radio? Sta sempre portando dietro Mondetta o no? Ma non so Gianni come ti ascolta, io adesso ti sento meglio, la radio è un po' più pulita, però ti stai trascinando meno roba, però sento sempre quel rumore in sottofondo, non so che cos'è, un rumore di ventola, qualcosa del genere. È il rumore di ventola dell'alimentatore che sta raffreddando, e purtroppo sì, ha ragione Gianni, è molto sensibile la capsula, io potrei abbassare ancora di più, però a questo punto otterrei questo risultato e non so quanto sia gradevole. No, no, rimetti come eri prima, che andavi bene. Quindi così, aumento un attimino, dovrebbe andare bene così? Positivo. Però potrei abbassare leggermente i toni, guarda un attimino, abbassando i toni, mi trovo in questa situazione qua, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, è colpa così. Allora rialziamo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, toni a pompa, a tutta canna. Ecco, ora sono libero cittadino. Come sarai di far cambiare il tempo? Io? Via. Allora tu, fatta la tua regolazione. Certo, meno alzi, cioè, più alzi più fa schifo. Cioè, schifo adesso che si innesca. Però prima tu fossi, ma perché c'ha la forza di suo, va bene? Tanto siamo lui, ho orgoglia. Io ti ascolto benissimo, 9.30, 9.30 sei il segnale. Cioè, tutta la radio è bella, come va bene? Guarda un attimino, quindi così dici che va bene, non tira dietro più di tanto la ventola. Nulla, ma ti sento un po' la ventola, guarda, va bene, non c'è questo innesco sotto, va bene, lascia così. Poi Roger, cosa stavi cantando, cosa hai cantato? Fatto Erba di Casalia di Massimo Ranieri. Erba, c'è la canzone dei Derogati, dei tossicodipendenti, di casa mia, na na na na na na na na na na na na na. Tu che dicevi piano, amore mio ti amo, ma vedi solo sembri quelli, sembri il cantante, non so se li conosci, dei Sonos de Mano. Sono Drogos. Quelli che cantano notte. E la notte abiglio, Come? Taglio, a chi non ti piace un cantante dei Sonos de Manos? Io ormai sono sconciato, non sono più assieme. Ognuno per i fatti suoi. Pietro Sanna, Virgilio Di Maruso e l'altro cantava, boh. Non mi ricordo quale ragazzo come si chiama. E niente. E roba, adesso per fare troppo. Va bene, ah, ecco il CD, sono sulla conta, ecco, ho trovato, bella. Ho detto, non mi scavo qui fino a quattro, siccome mi ci ha messo la mano di mia madre, la mamma mia non la deve toccare. Mi, fateci un avviso, una mano buona, esita. Pronto, e questa radio com'è questa mia? Mi piace. La tua, mi sembra, la, non dico la solita, però è abbastanza spinta. Ecco. Beh, non è. Eh beh, Giuseppe, buongiorno, va. Buongiorno a tutti, a tutta la ruota da parte di Giuseppe, buona domenica a tutti e in questo momento in BM con la speranza che mi copiate. E dove stai andando Giuseppe? Sto ti copiamo forte e chiaro, dove sei? Zona, diciamo. Zona? Monserrato. Senti come ti arrivo forte, lo senti lo schiaffone della radio e della stazione Grode Stations? Cazzo di Roger, ma sentite poco fa che stavate canticchiando, eh? Una vergogna siamo, stiamo cercando di far cambiare il tempo. Comunque dovresti guardare, dovresti vedere anche la mia antenna se sei in zona. Conmigo, allora penso che è forte. Cazzo, ascoltate questo pezzo se vi piace allora, eh? Ciao, Roberto! diretto con la radio della BM. Ah, io direi troppo ecco, secondo me. Fermo. Adesso forse l'ho spostato io come l'ho appoggiato sul sedile, questo cacchio di Mike. Non lo faccio troppo, Giuseppe. E adesso? Adesso sei tu. Stava gara. Ma dove ti trovi? Adesso parte, sto rientrando, via l'Italia. Caffa, questa è la bomba, sentimi un attimino, dammi un controllo se ci sei. Dai. 1, 2, 3, prova. Se tu mi dici esattamente dove sei, ti faccio vedere anche l'antenna. Allora, adesso sto girando esattamente per cos'è Corso Margherita di Savoia, a sinistra dell'emiciclo sono. Ah no, e allora sei dall'altra parte però. Scusa, mi hai detto... Ah, quindi hai percorso tutta la strada? Positivo. Comunque, in queste coordinate, Santiago 9, Radio Super 5. Cappa, siccome... Aspetta un attimino, fai un passaggio, ti do il controllo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1, 10, K. Ma c'è una scarpettina? No, ho le scarpe da tennis oggi. E una di quelle è attaccata, Mi. Ti arrivo alle 9:10. Mi sembra che erano tu in barra mobile, io ti arrivo 9. A meno che non c'è uno Smith elettrico, però... Stai arrivando 9:10 in radio Super 5 lo stesso. Positivo. Vieni avanti Gianni per un controllito tuo. A me ne arrivi 9:30, qua, a casa sì, 9:30. Addirittura. Appagato, il massimo è 9:40 e questo apparato mi arrivi dove ci sono 9:30. Sai cos'è? Che questo apparecchio era un mesetto che non lo stavo facendo girare, magari è un po' ratto per quello, è contento. Magari si è scatenato tutto in una volta. Ma già, io quanto ti sto arrivando invece? Guarda un po', 1, 2, 3. E lo stesso segnale di Giuseppe. È 9:30? Scappa. E quanto invece stai arrivando? Fammi un passaggio, dai. Ora, 1, 2, 3. Vedi? Sì. 9:30, fisso. Radio 5. Anche tu sei fisso. Fisso. Soprattutto fesso. Ma Pomponio dov'è? Pomponio, stappatela la bottiglia di birra. Sa che Pomponio ci ha abbandonato e io lo seguo in rotta. Parola, ben sentita, ben ascoltata e alle prossime, Pullighina. Ben sentito e ben ascoltato anche a te, Grodde. Saluto anche Giuseppe che credo di non aver mai sentito. Saluto anche Gianni, Luca e non so chi è rimasto in ruota. Guarda, guarda, c'è la policina ben sentita e buone faccende domestiche allora, e buona giornata. Avanti Giuseppe. Sì, positivo Gianni, dai, e confermo per l'amica in frequenza una fretta di paletta anche da parte mia, buona giornata e buon tutto. Ecco qua, niente, ciao policina anche a te, buon pranzo. E alle prossime, poi mi farai sapere se hai scaricato questo programma. Bene, bene, avanti, già, riprendi tu, un po' mi è andata verso qualche casa di mia, non butti a casa, lui va a casa, vai già. La domenica è così, la domenica deve festeggiare, cappa cappa, io invece sono da un bel, proprio non è tocco, un bicchiere così. Una volta a pizzeria mi ho bevuto quando ero fuori, ma poi non ho più toccata. Non sto più bevendo di niente, sto diventando la stima in tutto. La bevo io già, mi ricoverano. Vabbè, direi io lo stesso. Secondo me è un buon bottino verso me il butto, proprio ho mangiato. Bene, poi verso me il butto, ma non ho fatto niente, devo essere sincero. Adesso vado al giorno, a luna, no, mangio, non la chiamo, bevo, fresca. Il problema di Pompone è che si tringuti il vintero d'acqua, è quello che gli fa male, non riesce a digerirlo. Sì. Pompo. Chi è? Fabrizio, dammi un controllino adesso, per favore. Ma sono Pomponi, e comunque Fabrizio, mi hai sentito, mi hai ascoltato, Antonio Grodde, fammi un passaggio che sto guardando lo Smith, dai. Sì, ti ho riconosciuto, no, ho chiamato Pomponio che poco fa mi ha fatto notare una cosa, avevo stazionaria, è probabile che era la massa dell'antenna, gli ho dato due colpi sul tubo, probabilmente ha sfregato un po' e sembra che ora vada bene, perché magari il vento l'ha fatta muovere. Allora, 9.40 con portante, in modulazione 6.950 radio 5. Sì, adesso volevo un controllo se c'è ancora Alessio. Volta. Senti, Alessio non c'è. Ricambia la cortesia, guarda un attimino come sono io che sto utilizzando un altro apparato rispetto a quello solito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. E questo speaker non è che sia sicuro al 100%, comunque 9.15, 9.20. 9.15 non è buono, è per me. Per la distanza che siamo, assolutamente, per come sto andando. Addirittura, ma che apparato hai? Però c'ho un Lafayette che sto utilizzando, quindi non so quanto può essere attendibile questo Smitter. Però se stai, non chiedo, confermo agli altri, c'hai un attimino come degli stack particolari, come se stessi andando a massa qualcosa, eh? Stacca a mettere il radio, tra, se mi risali e risali, forse mai è un problema di massa. Tanto non è che l'altra volta arrivo, guarda. 9.20 di portante, in modulazione sei 9.30 radio 5. 9.20 di portante, hai detto, tu sei 9.30 a picchi positivi, ma ci ho preso un po'. Ma è tra l'altro il tuo mio è, ma si dice? Mio la parola, mannaggia. Stittico si dice, stittico, però cioè, stai arrivando bene assolutamente, ma tu come sei col power? Con il power sono... Dici importante. Dici importante. 50 monowatti. No, negativo, io sono... Sto sparando forte. Gli sto dando tutti i cavalli, infatti adesso diminuisco un pochettino. Fabrizio, prova a trovare, vediamo un po'. Guarda adesso come sto andando, ho provato, vedi, ogni tanto tendono a salire queste stazionali. Tanto scrocchi un pochettino, sente cro, cro, cro, cro, cro, cro, come se avessi proprio il PL che sta creando problemi, eh. Adesso sono alte, adesso sono basse, magari mi senti meglio, adesso stanno come tira il vento, probabilmente c'è qualche problema sull'antenna. Sai che lo stava facendo anche a me, ma tu che antenna c'hai adesso? È la Ringo. No, ho fatto una modifica sulla Ringo, eh. Ho comprato una quadrella per tendere il palo e gli ho messo tre radiali per dargli un'irradiazione maggiore in orizzontale. Sta andando da una bomba. Ho spesa 7 euro. E me non ho problemi, perché lo potrei fare io per un bistica, cioè un garage ben attrezzato, perché sono mezzi d'epoca, no? Come tutti, 18 ore professionali, quindi potrei costruire qualsiasi cosa, filettare, fare, soldare, non ho nessun problema, quindi potrei costruire anche un bel aggeggio qui fissato con tutto, non è quello il problema, infatti volevo provare a farlo, perché adesso cioè, le stazionali sono buone, col vento salgono. Che secondo me o non ti sta, c'è cioè, un problema sul palo, nel senso sulle gaffe del palo, come muove, lo stava facendo anche a me, tende a non avere massa per un attimo e quindi ti crea questo problema qua. Vedi, a saperlo ti avrei venduto la mia 500 che ho venduto esattamente 2 settimane fa. No, io più che altro ho più che altro moto, ho anche macchine, però più che altro moto. Perché le macchine purtroppo hanno necessità di ogni macchina di avere un garage, quindi è difficile mentre con moto in un garage da pensare parecchie. Baroglio, scusate gli amici un attimino se intrattengo un attimino la discussione del QSO con Fabrizio, ma quindi conoscereste? Sì, ci conosciamo, mi sembra che siamo stati anche in classe insieme. Capo, conosco molto bene. Conosco molto bene perché è il mio commercialista, ma vicino a te ci dovrebbe essere comunque anche un architetto che abita, che lo stesso fa parte del club. No, io faccio parte di un paio di club, però la verità non li frequento. Ci vediamo un po' sporadicamente, ma non li frequento. Io devo dire la verità, andare a fare lavori, queste cose non è che mi diverto molto. Ma comunque guarda, sta creando problemi e si sente proprio quando alzano e abbassano le stazionarie, scrocchia la radio. Avanti Luca. Allora come canta? È di taglia, va bene. Beh, non ho capito che la faccia in modo che le ginocchia, già. stai parlando lontano dal microfono poco fa. Boh, io non ti capisco, boh. Aspetta. Ripeti, io non ti capisco, dimmi, ripeti. Poco fa stavi parlando lontano dal mic. Poco fa, oh, ero lontano dal mic. Sono reattivo, sempre qua sono, Giuseppe. Seduto sopra il mio lettuccio. Boh, perché te l'ho detto mi è sembrato che stessi parlando dalla cantina. Infatti mi stanno controllando qui l'apparecchio, ho trovato dei sorprendenti. Ma no, è che facciamo sentire questo qua, come se cantava, faccio male per quello, boh, non so. Ma sono sempre qua, Giuseppe. Ascolta Luca, e adesso come ti sto arrivando? Guarda, proprio in questo momento, ti dico subito, ecco qua. 9.40, si dice, oscillante, 9.40. Adesso le butto l'antenna al doppio room. Non sei ancora a fondo scala, c'è 9.35 qua. Siamo prossimi a Viale Sicilia, vai. Siamo vicino a Sierra, così andiamo a passare. Cappa, ma al mare è andato, sì, Gesù. No, negativo. L'unica sveglia fatta in piena notte, esattamente alle 7:30, per confermo la rinuncia a mare. Anche io ho rinunciato, dai. Troppo brutto il tempo, e non... Siamo lì, c'è dalla parte di Alghero, forse c'è meno vento. Io ho detto, vai, se vuoi andare, io non ci vengo, lo freddo. È positivo, no, a me, ti ripeto, è dispiaciuto da morire stamattina, quando mi è stata data la comunicazione, infatti poi sono girato dall'altra parte, su che si dorme. Sì, vabbè, un po' di riposo già fa bene. Ah, se dopo il servizio di venerdì, cane, sono ancora un fumo. Gappa. No, io... Non ci sono andato perché ho visto il tempo, questo che c'era vento, poi ieri sono andato a vedere a Benito Urco. C'era gente? Ah, sì, abbastanza, Giuseppe. C'era anche il volontario di Sant'Anna che stava facendo, raccogliendo dei soldi per l'acquisto dell'ambulanza pediatrica. Esatto, è sempre in mezzo alle scatole quelli stanno, non basta che ce l'avamo loro in casa, pure loro in mezzo. Ma loro sono andati esclusivamente per fare questa richiesta, infatti due o tre volte l'ha comunicato dal palco, se avete un po' di coscienza, cosa date i soldi per questo acquisto di una nuova ambulanza, eccetera, eccetera. Caccarata, noi va bene, cosa che non riusciamo a fare noi, lo fanno gli altri. E loro stanno nascendo, 2 anni dice che ci sono, io ci ho parlato con loro, gli ho detto anche che ero deciso, non mi ha fregato niente. Ci ho parlato e mi hanno detto che stanno cominciando, che lui ha mollato un lavoro per fare questo. Però lo ammetto, dice io lo sto facendo come lavoro, non come volontariato. Ecco, me l'ero immaginato. Me l'ero immaginato già. Vedi un po' adesso qui via Montello come ti sto arrivando, dai, così però poi sono arrivato a casa e chiudo. E sì, quasi 9.45, dai. Sì, 9.45 adesso. Vabbè, facciamo girare, se no diventa monotona la cosa. Ma raga, va avanti, che è rimasto senza girare, avanti, grotte. Aspetta che mi sistemo i cavalli un attimo, Scusate un attimo. Un attimo. Ora, va bene. Scusate. Luca, riprendi, tra io, dai. Luca. La Pomponio. Ti sto chiedendo con Bazzucca. Caparocci. Dove 10, Radio 5 è la bomba. Guarda un attimino come ti sto arrivando io. Sono a mezza potenza, Dove 10 anche tu qua, Radio 5. Radio 5. Ora siamo all'Italia, soldi se la vuoi. E a Gianni, quanto ti sta arrivando Gianni? Scusa, si ascolti la città di Sassari, nord della Sardegna, che chiama Gambio. Io la Sardegna, che chiama Gira Vuzza, viene avanti, il nostro comando, Luisa, una buona domenica, che si deve cambiare l'altro. 7351, è una settimana di paletta, anche a te Cambio. È la stazione di Fiorlum, è in compagnia di una rotta. Adesso ti mando avanti grotte, per l'amico se ti ascolto. Caparogno, hai mai sentito, me l'ha ascoltato, metto un po' di cavalli, un po' di fettina di cavallo sulla graticola. Attenzione amico di Siracusa, se scopri la stazione Grodde da Sassari, operatore Antonio che ti super cordializza, avanti. Attenzione amico di Siracusa. Attenzione Siracusa, l'isola gemella di Siracusa. Gappa Roger, ben sentito, ben ascoltato dall'isola gemella della Sardegna, Gappa. Avanti Luca per l'amico di Siracusa, dai. Era sotto. Chi era il soprammodulino? Attenzione l'amico di Siracusa, se ascolti ancora la Sardegna. Papa Roger, ben sentito, ben ascoltato da tutta la rotta, qua di Sassari, eh? Vieni avanti un attimino perché si sta alzando il QRM, si sta alzando la propaganda, ma c'è QRM sotto. Gatti, io non lo sento già. Ascolti, metti adesso. Gappa, attenzione amico di Siracusa, se ascolti il doppio rumore che chiama, cambio io. La propaganda se ne sta andando, dai. Io vi auguro una buona domenica e un buon rientro al Fabacco domani, dai. Ci sentiamo, 7351 a te, tutto il tuo QRA. Doppio rumore in compagnia di tutta la ruota di Sassari, rimando la fettola di mano, un forte abbraccio. Ciao, ciao. Non si intende di più. Oh Gianni. Avanti, che sei? Cappa, dai, approfitto per questo secondo di bianco per salutarvi. E buon pranzo a tutti e alle prossime, dai. Cappa, Gesù, buon carico anche a te e famiglia, dai. Avanti, Pomponio, se ci sei. Ciao Giuseppe, saluto anche per te. Ah, Gianni, come si chiama nella tua? Passo? Antonè, arrivi in nove, già va bene allora. Ok, è stata colata di antenna. Cacchi l'altra, cacchi l'altra. Ben sentito, ben ascoltato Giuseppe, buon carica batterie e cordialità al QRA familiare. Avanti Luca. Io sentivo un po' bassino quel tipo. Un tempo per me. C'è una storia, dopo mi mangio un piatto di quegli occhietti piccoli. Aspetta un attimino. Ok. Sentato su Spiscali di chat. Tu non di Roche in Chile, per carità. Adesso sarà uno in più. Ascolta, perché non ti mangi un bel piatto di verrodino? Perché faccio il piatto di verrodino? No, io non l'ho detto, tu adesso. Ma veramente è allucinante, quando dico faccio tanto. Ma non è, anche tutti questi amici che ho, no? Mi posto delle ragazze anche, di varie zone. Non ci iscriviamo, non sappiamo come stare il tempo. E intanto dice a uno, ciao, sono bisex, e lui deve ricordare senza problemi, meglio che io dico, io sono attivo solo, attivo no, che non è uguale. E adesso lo deve accontentare, ormai. male, ti sei lanciato. Oh, attivi tutti e due i sensi, no? No, no, quello è stato relativo. Ma lui l'ha detto, vabbè, lo stesso. A me, cioè, come ti mi contatta uno così, già non le rispondo. Sì, no, non mi sa per dire, già andrà tutti, ma, carità. Sì, vabbè, tu sono vino, mi piacciono le donne. Anche sì, lasciamo parlare di... Allora, è lesbico. Allucinante, una cacca più. Sì, è cazzo, questa qua, 22 centimetri. Poi di che cazzo ti rincuro. Così per vedere come praticamente che metodo usavano per rimorchiare le donne, no? Passavo sempre, dicevo di essere una donna, questo qui mi aveva mandato la sua fotografia in cam, e tu fatti vedere in cam, che stai giubilando, gli altri della cam, c'era il tipo nudo col cane che gli stava leccando la torre dei pisci e c'era la vacca barriata. Del cane. Racconti. Te sto dicendo che li ho letti tutti i colori, tutte le parolacce che sapevo li ho letti. Ma gli altri le malattie che si imbigliavano con un cane. Non è che gli rubo segheggia. Sul divano il cane lo accarezzava e gli dorigava il tosso. Era di quelli dofilettici sicuramente. Che tristezza. Che tristezza, quante cose brutte che si vedono, guarda, su questo internet. È una delle cose, è una delle maggiori scoperte, perché ti mette nella condizione di viaggiare, di poter ricercare, tutta una serie di cose. Però come tutte le cose, né più né meno come il coltello alla cucina, come qualsiasi strumento, ti vedi il coltello alla cucina. O ci affetti il pane, o ci accoltelli le persone. E internet è la stessa cosa, ne puoi fare due utilizzi, o quello giusto o quello sbagliato. E questi hanno fatto il peggiore che si potesse fare. Infatti. No, anche mia figlia quando stava facendo una tesina faceva le ricerche lì, tutto quanto, è molto utile, io lo utilizzo per molte cose, anche mi guardo molte operazioni, perché a me piace anche il sanitario, cure di malattie, tutte queste cose qua. No, ci leggo molto, ma in chat non ci vado più di tanto, vado su Facebook con qualche amica, cose del genere, ma non più di tanto, perché mi è un po' deluso, ho visto che è una grossa giungla e bisogna saperci camminare, non bisogna perderti nel sentiero. Papà di Roger, come sei su, c'è il profilo Facebook? Con lo pseudonimo di Gianni Doppio Roma o cosa? No, non c'è nome e cognome io. Capa. Mio nome e cognome fra un po' lo saprete tutti, quindi. E io lo so già il nome e cognome. A parte te, ma ti ripeto. Poi, domani o dopo capirai perché. Perché c'è un articolo sul giornale. Lo sappiamo tutti, dovrà uscire un articolo dove ci sarà scritto il nome della sede, eccetera, eccetera, con la pubblicità. Allora, vedi che ne stai due strisce, e c'è gente che parla male di te. Uia, meno male ci sono io che ti difendo. Poi, problemi ci sono. Io ne ho tanti di apparecchi, ascolto in uno, trasmetto nell'altro, quindi non c'ho problemi. Gianni. Avanti. Mi che ti chiama Beniturgo, me. Capite che risate esemulate, ci sei arrivati. Sono la mucca Carolina, e no. La vacca desolina, Comunque, peggio. Se guardi. Nel mio profilo c'è una foto con lui, lo conosco abbastanza bene. Vedi tu? Capa Roger. Dai tanti tumori con lui a cantare, con la canzone che hanno fatto, non so dove, non mi ricordo, ma zona caraibica. Il piccolo Celentano. Capa, è salito con lui, sono una canzone, hanno fatto insieme. Capa. No, lo so che si conoscono abbastanza bene. Enzo lo conosco bene, dai. Sono buoni. E vabbè, io li conosco tutti da quando erano ragazzini. Ti immagina che io avevo la sede lì dove abitavano loro. Conosco Alan Poole, faceva parte delle, come si chiamano, che cantavano, che avevano iniziato con Morandi, il coro degli angeli, ecco. Quello era il padre. No, sì, è vero, era il figlio piccolo di cosa, come si chiama, che poi non li distingue per altezza. Vabbè, non me lo ricordo lui come si chiama, ma è quello che fa sempre lo spettacolo per Pina ogni anno, dai, che fa, che riunisce molti gruppi musicali, eccetera, eccetera, in Piazza del Sì. E poi io non ho mai capito questo spettacolo dedicato a una persona che sì, attenzione, io rispetto il fatto che questo qua sia rimasto colpito dalla perdita della persona cara, però non era una persona che con l'ambito del canto c'entrava molto lei, Ma c'entra lui. C'entra lui e probabilmente era una persona innamorata della moglie e ogni anno la vuole ricordare come. Probabilmente è quello, senza probabilmente, perché ci tiene in una maniera particolare, se no non avrebbe fatto tutte queste cose per lì. No, certo, sicuramente. Però, ti ripeto, e poi ha portato anche grandi nomi, perché Morandi è venuto e anche qualche altro, sempre della scuderia di Morandi è venuto grazie a questa cosa. Allora si presume che Morandi è il padre di Alan Pulliche. Così ho sentito e così vi dico. Sì, questo sì, perché sono molto amici, ti ripeto, perché il Pondi che si chiama, adesso se non sbaglio si chiama Andrea forse, e faceva parte del coro degli angeli, che era un coretto che era composto dai fratelli Pondi che più altre due o tre persone, e cantavano le prime canzoni, facevano il coro alle canzoni di Morandi, facevano i coristi nelle prime canzoni di Morandi. Sì, confermo, io lo conosco molto bene, non ho voglia. Anche un po' meno, ma lo conosco molto bene. Allora, già, fai un po' a ridimi. Abbinato al cognome Pudi, che non è, mi sembra tipo Samantha Fogu, queste cose qua. Cioè, direi, dagli un nome più sardo. E vabbè, adesso vuoi fare. Anche io mi chiamo Pudi, di cognome, la c'entra. Non è quello, ma già lo sai come mi chiamo io, è come se mi dovessi chiamare Tony, oppure Mike, abbinato al mio cognome va di Fifu. Io per me ho la fotografia a braccetto con il Teltoni. Con cosa? Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare. Guarda, il Teltoni è una persona troppo in gamba. Io praticamente ho fatto al palazzetto, ho fatto lo spettacolo e ho fatto la servizio d'ordine, e quando ha finito lo spettacolo ha detto siete tutti invitati dalla spaghetteria, non mi ricordo dove, pago io, venite a mangiare c'era a me, io non ci sono andato, la verità sono andato quelli con i miei, sono andato. Ma non so se ricordi, è notizia di qualche anno fa, evidentemente la Vigliura aveva fatto la mantesigosa, nel senso che quando aveva compiuto i 18 anni aveva fatto una mega festa a casa sua, evidentemente aveva fatto così della serie siete tutti invitati, anche gente che non conosceva, gli hanno distrutto mezza casa. E la gente approfitta sempre delle cose. Io mi ricordo di un compagno di scuola di mia moglie che era un po' soggettino, ma era di quelli che avevano un bel po' di soldi, c'era villa al mare, villa qua, villa là, e niente, aveva fatto una festa nella casa che c'era al mare, e si è ritrovato, era buttato fuori dalla finestra la brandina, gli hanno rotto le maniglie, hanno fatto un casino in quella casa, vi prego, e me lo ricordo ancora, povera, ci faceva un bel rito. Infatti questa è ad opera di chi poi alla fine è invidioso dalle cose degli altri, capito? Quando io ci dico, al limite se ti hai invitato approfittane nel senso stai bene, mangia, bevi, però quello di distruggere no. No, non sono d'accordo manco io sono contento di chi ne ha più di me, sono contento, non invidioso, vuol dire che è riuscito qualcosa in più, però mi hanno sempre insegnato a rispettare la cosa degli altri, per cui non mi permetterei mai di fare una cosa del genere, mi ha dato anche un po' di fastidio, ti dico la verità, che mi hanno fatto tutte queste questore gli hanno messo l'uovo nella sedia, alla tasseria, siccome lo ritira un po' grassottello, come si siuta schiacciato l'uovo a tutto il reddito. Ragazzo, ma vedi, per assurdo adesso, capisci quello che dico, non è che lo giustifico, però capisco di più che al limite si appropria di un qualcosa di un altro piuttosto che un qualcosa che qualcuno che lo sfascia. Cioè al limite rubagliela, però se per rompergliela proprio vuol dire che sei distruttivo, capito? Non condivido nessuno dei due dei gesti, però almeno uno è giustificato, l'altro no. Sì, infatti, perché poi non è usufruisce né uno né l'altro, almeno quando lo rubi, quello che lo ruba ne usufruisce, o almeno ne trae sempre qualche profitto. Cappa di Ruggero. Pompunio. Dica. Scaricatela questa bazooka, bazooka. Aspetta a vedere con quanto sto uscendo un attimo, scusa. Cioè va bene, dai. Ricordo, sono con l'altro adesso, con la 58, poco fa stiamo andando con l'altro, non si funziona bene, va bene, vera. Fabrizio, ci sei ancora? Attenzione Fabrizio, negativo, Leoncino. Leoncino è andato a fare la pappa, Giuseppe lo stesso è andato a fare carica batterie, contiamoci, 1, 2, 4. Anche per buona la birra è colpo. No, non ne ho preso ancora, E tu ti stavano ammaliziando dicendo che ti avevi bevuto una cassa di birra. C'è anche Luca, Lucrezia, va. Ma Luca sta mangiando del pesce. A me me lo stavo preparando, quindi quando è pronto mi chiamano e mi alzo da lettuccio. Bravo, mi sa che vi lascio, però anch'io vado un attimino a prepararmi per fare carica batteria, dai, mi hai sentito Gianni, cordialità, Pomponio e schiaffi in bocca a due finché non diventano dispari, a Lucrezia, ciao ciao. Ciao ciao Rob, buona carica, avanti Pomponio. Ciao Anto, buona carica, ci sentiamo. Andrà bene, andrà bene, mentre vado a casa mia perché la pappa io che vedo. Già tutto già pronto, lo sono messo a accendere e scaldare. Sentiamo, allora se ci sente. Aspetta, Ali, ti volevo chiedere una cosa, cosa li possiamo mettere di capsula, un dettaggi di quelli, tipo quello che hai fatto tu l'altro giorno, che dovevo comprare il mio e poi me l'avevo messo nell'apparato io. A quello di Franco, cosa gli avevi messo? La capsula verde, quella del mio citofono l'avevo messo. Quella capsula piccolina verdolina e basta. E non ne hai altre tu? No, non ne ho più, no, manco una ne ho, figurati. Non ne ho più. A Franco invece avevo messo la capsula del VHF nel microfono dello ZC e ho visto che pompava parecchio. Ma con capsule di VHF c'ho più. Ma in verità si trovano queste verde? Sì, si trovano. Ma sono a controllare le capsule che vendono di quelle piezoelettriche. Quando di dietro non c'è problema. Sì, e appunto ci è arrivato qualcuno. Perché non voglio mettere su un apparecchio nuovo che mi deve arrivare, che lo devo mettere in macchina di mia moglie, quindi voglio qualche cosa che si faccia sentire un po', là. Positivo. Sono tipo se qualcuno c'è un po' che non lo usa. C'è la capsula e ce la metti lì. E questo che lavorano molto bene anche quelle. Io l'ho pensato, ti ho detto nel ZG, in quel microfono di Franco, esce benissimo. C'è una bella praticazione, pompa parecchio del 546. Kappa, adesso vediamo, io già ne ho un bel buco di capsule, però boh, non so quale di che cosa sono. Ne ho la DM1000, ne ho... però sono tutte mischiate, non mi ricordo di che cacchio di apparecchi sono, capito? E tu prova una, ti metto un barattino vicino, guarda se c'è la differenza da una all'altra. La migliore che ci piace. Beh, certo. Laggiù una serata, devo stare una mattina, sono salata insalata. Poi vabbè, adesso vedo come si può far uscire, perché quello lì esce bene con il microfono, però bisogna cambiare la capsula, una capsula buona bisogna trovarla. Quindi mi viene più a male se ne ha ancora di quei circuiti di videocitofono, uno di questi giorni glielo chiedo. C'è da Santa Maria, guarda se ce n'è ancora di quei circuitini, c'erano le capsule inserite, mi sembra che ce ne erano buttati, quindi al controllo, se ne ha ancora di quella roba faccio un altro culo di quelle capsule. Sì, vabbè, dopo tutto te lo porterà a collegare, quando te lo porta a collegare al limite del profilo. Va bene. Ok, mi sto andando a bagnare, faccio un bambino, ci stiamo portando, va? Va bene. Ok, buon carica adesso, buon carica tu, ti vado anche io a mangiare, perché mi sa che anche qua stanno per finire di preparare. Ci sentiamo dopo, se riapre con l'altro apparecchio. Il classico, io ho attaccato il bagno per far andare un pochettino, che la fermo da troppo tempo. Poi mi riattacco il DAX, perché è il mio, la mia chicca più pericolosa. E a dopo Gianni, ci sentiamo.